Bene, buonasera, benvenute alle signore e signori. Grazie di aver aderito al nostro invito. Oggi, anzi questa settimana, abbiamo un duplice appuntamento, tutto dedicato alla poesia, anche perché il 21 marzo è la giornata così mondiale dedicata alla poesia. E iniziamo con la raccolta di Alessandra Pozzan-Osler, che è qui con noi questa sera e ringrazio. E abbiamo anche piacere di avere per gli ospiti, appunto, come moderatore il professor Giacomo Fornari, che è il presidente dell'Istituto Musicale Antonio Vivaldi. Bene, abbiamo un programma intenso, direi, quindi non rubo altri minuti preziosi. Vi ricordo che la biblioteca è così in questa sede provvisoria, ma aspira entro breve tempo ad andare nel polo bibliotecario che verrà realizzato tra qualche anno all'Istituto Pascoli qui in via Longon. Nel frattempo, per far conoscere il materiale che raccogliamo qui e i nostri servizi, soprattutto invogliare sempre più persone a leggere e ad occuparsi di letture, di libri, di narrativa, ma anche di storia, tutto locale, organizziamo delle iniziative ogni lunedì e anche il giovedì, per cui avete sulla sedia, troverete delle cartoline nei prossimi due appuntamenti, e soprattutto invitiamo sempre anche così i nostri ospiti eventualmente ad iscriversi alla biblioteca, che è un'operazione molto veloce, si tratta di compilare un modulo ed è assolutamente un'azione gratuita, nel senso che poi si ha la possibilità di essere costantemente aggiornati sulle nostre iniziative e si può accedere ai nostri servizi. Vi ringrazio e vi cedo la parola. Grazie a te. Io vorrei ringraziare la direttrice della biblioteca, la dottoressa Trevisan, che è sempre molto attenta e sensibile alle diverse iniziative. Non è così ovvio che nelle biblioteche, come dire, si venga ospitati per parlare anche di quello che si legge. Sembra una cosa assurda, ma in realtà in effetti è così. Ed è molto bello che la dottoressa Trevisan sappia collegare, come dire, questo aspetto della fruizione del libro a non solo la consumazione, la distribuzione e l'ordinazione del libro. E questa è una cosa che ci riempie di grandissima gioia. Oggi sono qui nelle vesti di dilettante, diciamo, io insegno letteratura poetica e drammatica al Conservatorio Monteverdi di Bolzano, quindi effettivamente interessarsi di testi è il mio lavoro, se vogliamo, ma i miei testi sono molto diversi. Quando leggo un verso di Boito oppure uno di Da Ponte, per noi c'è una funzione, cioè il verso non è più una poesia in sé per sé, ma diventa un qualche cosa che viene collegato alla musica, e quindi per noi, come dire, il verso è un punto di partenza per arrivare al punto di arrivo, musica, quindi questo è il mio lavoro. Questa volta io mi fermo invece sul primo punto, cioè su quello, diciamo, del verso sic et simpliciter, e quindi, come dire, qui agisco oggi come appassionato lettore e cultore di poesia. Io stesso non scrivo poesie, ho questa, come dire, velleità di dire che io non ho assolutamente capacità di scrivere versi, e quindi questo mi dà anche, come dire, equidistanza rispetto al verso che leggo. Parlando con Alessandra Pozzan-Osler, che è l'autrice di questa sera a Bolzano, è molto più nota di me, quindi viene indegnamente presentata dal sottoscritto, che ha vinto anche una quantità di premi esorbitanti, e anzi le poesie premiate sono quelle che non leggeremo questa sera in genere, ho scelto le meno premiate. Detto questo, Alessandra mi ha detto alcune cose una volta che ci siamo incontrati per parlare così sulla sua poesia. Sono delle cose che mi hanno colpito tantissimo e che ci danno anche la cifra della sua poetica. Sto parlando un po' come un docente di letteratura, c'è qualcosa che non va. Adesso devo cambiare, devo trovarmi qualche cosa. Scherzi a parte, ha detto una cosa secondo me bellissima, e qui mi sento un po' meno dilettante. Dice: ma le mie poesie sono come canzonette, se vogliamo. In effetti, come dire, più che canzonette, alcune le definirei delle ballate. Ascolteremo tra poco due o tre ballate e ve le segnalerò. Non so se Alessandra l'ha fatto volutamente rifarsi alla forma letteraria della ballata medievale, oppure se è successo. però una caratteristica tipica dell'autrice, a mio punto, a mio modo di vedere, è proprio il suo essere narrativo, cioè la sua non è una poesia tra virgolette poetica, concedetemi questo termine, ma una poesia estremamente narrativa, discorsiva, e soprattutto in alcune delle ultime noteremo anche un cambio nella punteggiatura, che diventa una punteggiatura estremamente prosaica, cioè il verso diventa sempre più largo, sempre più ampio e sempre più vicino, diciamo, alla prosa del racconto, al che mi domando se Alessandra un giorno non vorrà scrivere dei racconti, perché secondo me ne ha assolutamente tutta la cifra, anche quella tipica femminilità molto bella che fa, come dire, del racconto una tipica cifra, come dire, un tipico settore di intervento femminile. Alessandra mi diceva anche una volta, ma io non sono poeta. Dico, come, mi fai vedere un libro di poesia, adesso mi dici che non sei poeta? Sarebbe come se dicessi non sono docente di conservatorio. Ma in realtà voleva dire una cosa, cioè le sue poesie sono quasi, come se interpreto io in modo forse arbitrario, quasi come dei piccoli quadretti, delle piccole pennellate che non hanno la velleità di raggiungere chissà quale alta letteratura, ma che hanno soprattutto la voglia di narrare sentimenti e sensazioni in un modo molto libero e secondo me molto riuscito. Io ho raggruppato queste poesie in alcuni, come dire, in alcuni piccoli cicli, perché effettivamente noto che ci sono, come dire, dei piccoli settori di appartenenza, e io mi permetterei già di partire col primo ciclo che avrei enucleato e approfitterei addirittura della voce dell'artista stesso che ha scritto le poesie, perché è vero che ci sono tanti attori che le possono dire bene, le possono dire meglio. Spesso succede anche nel campo della musica, non chiedete mai a un compositore o quasi mai di suonare la propria musica, perché spesso non la suona bene. Ad esempio, se voi prendete le incisioni di Stravinsky, che dirige se stesso, trovate orchestre sfilacciate, stonate, fuori tempo e fuori luogo, ma naturalmente con dei grandissimi colori. Invece Alessandra è stata conosciuta da me in un caso di necessità, perché dovevamo presentare un altro libro di poesie, ci siamo trovati in grandissime difficoltà e una signora qui presente nel pubblico ha avuto, non dico chi è, ha avuto, come dire, ha avuto il torto di averci salvato e ci ha permesso di trovare in Alessandra un'ottima lettrice. Naturalmente ascoltare una poesia da parte dell'autore significa anche ascoltare una interpretazione che non va soltanto, come dire, in un senso estetico, ma va fortemente nel contenuto. Io adesso leggerei, se tu sei d'accordo, soltanto la prima, se a te va bene, che c'era una volta mio padre, oggi è il giorno del papà naturalmente, e direi che questa poesia può darci questo piccolo ingresso. Anche questa è una poesia, secondo me, di tipo estremamente raccontistico e narrativo, non ha niente di ermetico e tra l'altro dà anche il titolo a questa raccolta, quindi la leggiamo per prima, non a caso. Devo dire che a mio modo di vedere, soprattutto l'ultima strofa che inizierà con brandelli d'azzurro cadevano ai piedi, eccetera, eccetera, sono un pessimo lettore, ecco perché non le leggo io, siete salvati. Direi che questa, secondo me, è una, come dire, è una strofa, una sezione, vorrei dire quasi, parlando in termini tecnici, una stanza di canzone quasi trovadorica, secondo me molto ben riuscita, che ci fa veramente, ci dà tutto il piglio poetico di Alessandra. Che tu quando l'hai scritta questa poesia, se posso chiedere? Beh, alcuni anni fa, sì. Mm-hmm. L'ho scritta molti anni fa, mio padre manca da molto tempo, per cui... Quindi ascoltiamo, come dire, un'Alessandra seconda maniera, perché poi ascolteremo anche la prima maniera. Va bene. Beh, buonasera a tutti. Dopo questa presentazione importante, io comunque sono molto coraggiosa a farmi presentare al professor Fornari, perché non so mai che cosa dirà e vabbè, e come metterà la scaletta, perché mi ha sconvolto un po' la Ce l'abbiamo qui, l'abbiamo cambiata tutta. Insomma, dovevamo metterci d'accordo, è arrivato in ritardo. Improvvisiamo. Allora, è la festa del papà, io leggo appunto questa poesia che avevo dedicato molti anni fa a mio padre, che è mancato molti anni fa. Mio padre è stato, come penso per tutti, una figura molto importante nella mia vita, e ha un po' dalla favola, in quanto così mio padre mi chiamava la sua principessa e mi aveva insegnato a guardare alla vita attraverso le lenti della fantasia, non guasta mai, insomma. C'era una volta mio padre. Io, principessa, dal nostro castello, guardavo felice la valle del regno che tu racchiudevi nel tuo manto d'amore. Tu, il mio re, portando sul capo una corona d'orgoglio, tracciavi per me percorsi fioriti e mi volevi vestita d'azzurro perché la mia vita sapesse di fiaba. Il fiume del tempo scorreva insidioso e lontano da me, distratta dal sogno. Vestita di nero, in un giorno d'estate, io chiusi i tuoi occhi. Brandelli d'azzurro cadevano ai piedi di una principessa ferita, brandelli raccolti con mano tremante e ostinata, per continuare una storia che non voglio finita e mettere il segno fra favola e vita. Ma si tratta di una poesia. Si tratta di una poesia, secondo me, molto molto bella e letterariamente anche abbastanza raffinata. Alessandra evita, come dire, la banalità della rima, ma arriva alla rima soltanto alla fine, nel distico finale, tanto per dire adesso abbiamo costruito una fine sotto il profilo letterario, per cui secondo me è una poesia veramente degna di nota, perché pur nella libertà, diciamo, che un poeta giustamente oggi deve utilizzare, perché il linguaggio moderno è un linguaggio completamente diverso che fa della libertà la propria cifra, devo dire che però ha costruito secondo me un'opera letteraria di grande interesse, così come mi piace tantissimo e la trovo collegata alla precedente Ritorno, che invece troviamo sempre a pagina 6 di questo splendido libretto e che chiediamo ad Alessandra di leggere. Sì, beh, questa è una poesia che io ho amato molto, perché io sono una persona molto all'antica, anche se può non sembrare. In questo mondo confuso abbiamo bisogno di ritrovare le nostre certezze, i valori che a volte non abbiamo il coraggio di esprimere per paura di sembrare fuori moda. Ritorno. Profuma ancora di incenso e di gigli la piccola chiesa che mi vide bambina, salire pian piano la china delle certezze che hanno dato sostegno al mio lungo cammino. Tornare per ricordare, tornare per rinnovare la forza di credere, tornare per ridisegnare i confini del bene e del male nella nebbia del dubbio che turba la mente e confonde il pensiero. Occhi che brillano della stessa luce su volti solcati dalla vita e voci più roche unite nell'antico canto cancellano il tempo della mia lontananza e snodano il groviglio delle passioni. Verità sopite riemergono intatte come vergini guerriere pronte a sconfiggere gli eroi del nulla. In questa pace riscopro quanto potrebbe essere ancora semplice vivere. Questa non mi piace. Ah sì? Adesso Alessandra dice che le faccio leggere una poesia che non le piace, invece a me piace moltissimo. Come avete visto, queste due poesie sono unite dalla, come dire, da una percezione molto forte, quella del ricordo, e d'altra parte quella del ricordo sia nella musica che nella poesia è uno dei momenti fondamentali dell'azione poetica. Io vorrei chiedere però, Alessandra, io direi prima la leggiamo e poi ci spieghi perché non ti piace questa poesia, che invece io trovo assolutamente molto bella. Anche qui, come dire, l'avevo selezionata tra le prime perché anche questa in qualche modo, sotto il profilo della sua poetica, appartiene al concetto, diciamo, del ricordo in qualche modo. Ma no, perché questa tratta un argomento molto delicato. Quei giovani che appunto non trovano la loro strada, la cercano attraverso la droga. Io purtroppo, ecco perché non mi piace, sono in conflitto con me stessa, fa provare una certa pena per queste persone e una certa rabbia. Oggi non accetto più che ci siano delle persone che entrano in questo baratro, in questo tunnel senza poterne uscire, perché ci sono mille mezzi per capire che è una strada sbagliata. Ecco perché sono in conflitto con me stessa, fra diciamo il provare pena e comprensione e rabbia contro queste persone. Ecco perché non mi piace, non mi convince. Comunque anche se posso dire, è chiaro che la poesia e l'opera d'arte nasce sempre da un senso di conflitto di qualsiasi tipo. Ed è proprio il conflitto che forse porta un poeta a scrivere, un giornalista a fare, come dire, un racconto di carattere scientifico, un musicista a comporre, eccetera. Quindi direi che è proprio il conflitto che secondo me rende questa poesia molto intrigante. Poi questa è una poesia, come dire, un po' catulliana, molto breve, molto semplice, molto pregnante, che va subito al sodo di questi contrasti, perché a me piace molto. Però è giusto ed è normale, penso, che un fruitore abbia, come dire, una percezione diversa rispetto a chi scrive una composizione. Permettetemi di fare un altro traslato musicale. Se qua ci fosse Mozart e gli chiedessimo qual è la tua composizione preferita, ci direbbe che la sua composizione preferita sarebbe Idomeneo Re di Creta, un'opera che forse noi conosciamo soltanto di titolo o poco più, magari ci è capitato una volta di vederla in televisione, per carità, ma non è certo l'opera più rappresentata. Quindi è normale che succeda questo, e trovo che sia appunto giusto così. Oggi a noi di Mozart piace di più Don Giovanni, la Zauber, Flöte, Requiem, eccetera. Mozart preferiva Idomeneo, che ci appare come un'opera un pochettino ostica. A me piace questa poesia proprio per il suo senso forte, mi sembra che qui Alessandra si sia trascinata molto a scriverla, e proprio per il suo senso di conflitto. Giovani perduti. Abbiamo vissuto un poco, alle nostre spalle il sole. Ora piove, sulla terra bagnata di dolore, sui germogli morenti, sulle ali pesanti delle farfalle. Piove sui nostri occhi più grandi, sulle nostre labbra chiuse, sulle nostre spalle dolenti, e siamo soli, all'improvviso, sotto il fragile ombrello dell'ultima, disperata illusione. Sì, merita veramente un applauso, anche se la poesia è dolorosa. Chissà, io mi domando se qui Quasimodo giochi qualche ruolo, seppure, come dire, questa coincidenza di alcuni versi sia puramente casuale, come succede. D'altra parte, come la musica è fatta, diciamo sempre, di 7 note, no? Sono 12 suoni, che sono un po' di più, anche non so quante migliaia di parole abbiamo in italiano. Non lo so, 5.000, 6.000, non tante di più, poco di più, alla fine le combinazioni sono quelle. Io volevo però farvi porre l'attenzione su questo verso che a me piace tantissimo. Ora piove sulla terra bagnata di dolore, questo va bene, più o meno chiunque scriva poesie potrebbe scrivere, ma questo verso lo trovo veramente forte. Allora, ora piove sulla terra bagnata di dolore, sui germogli morenti, lo trovo bellissimo. I germogli che sono appena nati sono già morenti, quindi sono già predestinati, come dire, a un certo dolore. Trovo che sia veramente un'immagine poetica di grandissima forza, che arriva veramente a cogliere nel segno. E sempre per concludere questa prima sezione del, come dire, del ricordo, del ripensamento, del pensiero che guarda all'indietro, sempre cambiando completamente quello che era stato il copione, però io ti avevo avvertito, ti ho detto guarda che se facciamo un copione dopo rischiamo di essere noiosi, invece questo bello della diretta ti mette sulla graticola, ma forse per il pubblico è molto più, come si dice, spannend. Per me un po' meno, però lo stesso. No, ma sopravviverai, vedrai, sarà un'ora terribile, ma dopo sopravviverai. Allora, la poesia, Ho sbagliato la... No, è qui, l'avevi messa qui, il 4, ricordo. Ricordo, esatto. Ti andava bene? Sì, sì, va benissimo. Ancora? No, ho solo sbagliato a scrivere la pagina, va benissimo, ricordo, esattamente. Sempre, dicevo, con questo concludiamo la parte di una persona che guarda, come dire, dietro le spalle. Ma guarda, questa è datata, ero una ragazzina. Volevo anche dire che questa è stata una delle prime tue espressioni poetiche. Sì, beh, adesso magari passiamo un po' il tono, espressioni poetiche, io non vorrei magari usare questa parolona, perché io scrivo per il piacere di tradurre in parole le mie emozioni, i miei sentimenti, ma non credo di poterle elevare a rango di poesie, comunque grazie. Formalmente però, lo sono. Però insomma, questa poi avrò avuto, non so, 17 anni. Esatto, tu mi avevi detto che questa è una delle tue prime poesie. Sì, delle prime un po' serie, perché poi quando ero bambina mi divertivo a fare le cosette un po' buffe, insomma. E quindi io prima di leggere questa poesia avevo una domanda: quando è che hai deciso che valeva la pena di tenere da parte queste cose che scrivevi? Ma deciso, io fin da piccola così mi piaceva scrivere, appunto, tradurre in parole ciò che sentivo, ciò che provavo, i momenti di gioia, i momenti di tristezza, e le ho raccolte, le ho lasciate un po' disordinatamente così in un cassetto. Poi alla fine, e penso proprio grazie alla professoressa De Chiusole, che le ho raccolte, perché ha avuto l'idea di premiarmi, la giuria, allora ho detto, beh, forse vale la pena raccoglierle, e le ho raccolte, perché non è che scrivo molto, insomma, ne avevo scritte una quarantina in tutta la mia vita, per cui figurati. Questa è una delle prime che ho avuto il coraggio di mostrare, insomma, che è leggibile, perché avevo 18, 18, non mi ricordo, insomma, era una ragazzina comunque ancora. Poi più avanti ne leggeremo anche un'altra, diciamo, dei primordi, quindi sì. Vedremo anche che ci sono certi parallelismi, diciamo, che connotano queste due poesie. Questa mi piace proprio per la sua estrema, come dire, freschezza, semplicità. Sì. Anche ingenuità, ma se uso questo termine non in senso offensivo, naturalmente, una certa ingenuità di toni che naturalmente nell'età più matura viene assolutamente superata. Ad esempio, noteremo che Giovanni Perduti è agli antipodi rispetto a questa poesia. C'è stato un percorso molto importante, sia sotto il profilo psicologico, diciamo, nella persona che l'ha scritto, sia sotto il profilo, diciamo, della qualità letteraria. E quindi leggiamo Ricordo. Sì, Ricordo tratta di un amore giovane, quegli amori fragili che basta una piccola lontananza e insomma non resistono al tempo. Sono due ragazzi che dopo aver creduto di essersi innamorati, dopo un periodo di lontananza si accorgono che il loro amore è svanito e di questo rimane solo un ricordo. Un piccolo caffè solitario, fuori il vento di gennaio, un tavolino, due tazze dimenticate e il tuo sguardo che incontrava il mio in un linguaggio che ci rendeva muti. Ricordo di attimi che non torneranno. Credevo di tremare a ritrovarti qui, dopo lunghi giorni trascorsi a ricordare, ma tu non sei più tu, e a te preferisco l'immagine che il tempo non cancella. Non guardarmi, anch'io sono cambiata. Noi non ci conosciamo più, non siamo che un ricordo. Bella. Non mi sono tenuto quasi. Cosa? Mi sono tenuto quasi, non ho esagerato. Dunque, questa è, come dire, appunto la parte che riguarda più la retrospettiva, diciamo, del poeta. Invece questa seconda sezione, un attimino più ampia e più intensa, dove leggeremo anche delle nuove poesie tra le ultime, queste in fotocopia mi pare di capire che sono tra sì, le ultime che hai scritto. Sì, in fotocopia ce ne sono, sì, perché non sono ancora nel libro, lo devo far stampare. Quindi c'è da stampare un nuovo libro, quindi presentiamo in anteprima anche il prossimo libro, giusto? Sì. In qualche modo. Allora, Cuore e Ragione si intitola questa poesia, Qui invece, come dire, all'aspetto di un sentimentalismo, come dire, molto femminile che abbiamo sentito nelle prime poesie, c'è invece, secondo me, risalta con molta forza, una grandissima forza del tuo carattere. Io ho, come dire, messo in relazione questa poesia. Quando io preparo le cose ascolto sempre musica. Oggi sentivo in televisione che parlavano della Quaresima e nel TG3 dicevano che in una classe dell'Alto Adige hanno fatto rinunciare ai ragazzi determinate cose, no? E un ragazzo ha detto: adesso non ascolto più musica quando faccio i compiti. L'ho guardato e dico: ma come? Com'è possibile? Io non faccio altro quando preparo le lezioni, quando scrivo i miei libri, eccetera, eccetera. Quando ascoltavo quest'aria avevo proprio un parallelismo molto interessante con la seconda aria della Regina della Notte al flauto magico, e chi leggesse il testo, diciamo, di questa seconda aria della Regina della Notte trova un certo padan, se no che la Regina della Notte va più sull'aspetto, come dire, della cattiveria magari, qui invece si va sull'aspetto dell'orgoglio, e questa poesia secondo me è piena veramente di grandissima forza e molto, non lo so, molto sì, solida. Volevo sapere in quale situazione l'hai scritta. Sì, quando nella vita si crede in alcune persone, si amano alcune persone, non è detto che sia il nostro compagno di vita, può essere nel mondo del lavoro, dell'amicizia, e si crede fortemente a questo e abbassiamo le difese nei confronti di queste situazioni, poi si viene delusi e ricostruire un po' è molto difficile dopo una delusione del genere, però bisogna metterci la forza. Io qui ho cercato, qui c'è un po' di cattiveria anche, perché appunto no, c'è più orgoglio, orgoglio sì, sì, naturalmente, e la voglia di difendersi appunto dal male che si può ricevere a volte, no? E bisogna fare leva sulla ragione, non sul cuore, perché altrimenti... Cuore e ragione hanno camminato sul mio cuore con scarpe chiodate, a passi improvvisi e veloci, bruciando le difese che la purezza del mio amore aveva reso fragili. Hanno preso a sassate la casa dei miei sogni, violando le pareti delle mie certezze. Ma non mi piegherò alla stanchezza del vivere, non cederò all'amarezza della delusione, non mi abbandonerò al pianto silenzioso e solitario della sconfitta. Io rinascerò, oltre l'orizzonte disegnato dalle mie illusioni, e berrò alla fonte del risveglio per appagare la mia insaziabile sete di verità e di vita. E vana sarà la corsa di chi vorrà raggiungermi, perché io, allora, sarò troppo lontana. Devo dire che questa poesia sarebbe anche una buona, come dire, si parla di musicoterapia, ma io parlerei anche di poesioterapia, assolutamente, di letteraturoterapia. Magari una volta che una giornata non ci va bene, la lettura di questa poesia potrebbe darci veramente una carica di energia e di adesso, anzi, prossimo collegio docenti, prima di mi consiglio io stesso la lettura. Volevo anche sottolineare una parte che io trovo assolutamente strepitosa. Io mi permetto di dire quelle cose che a me piacciono, e d'altra parte tu, chi mi conosce, sa già che io gioco sempre a gamba tesa, quindi sa già come va a finire, però trovo che questa seconda stanza, hanno preso a sassate la casa dei miei sogni violando le pareti delle mie certezze, trovo che sia veramente una espressione veramente poetica e veramente molto bella, tra l'altro con questi due settenari così in rima sciolta, veramente molto bella e molto riuscita, che ci dà anche tutta la sensazione della ferita della persona e quindi della sua forza di reazione, che appunto per me rende questa poesia molto positiva in sé sotto il profilo, diciamo, della carica energetica, sì, una specie di confronto. Invece adesso volevo, come dire, fare questo slalom tra i diversi sentimenti e come Alessandra li esprime nei suoi versi, che è quello che a noi interessa di più, e la poesia invece è di tutt'altro afflato, diciamo, e il titolo significativo è lacrime. Qui devo dire che mi ricorda proprio Lenuge, o comunque quel tipo di poesia, diciamo, che in periodo ellenico si era molto diffuso, quasi come una specie di, come dire, di diktat, cioè una piccola pennellata che basta semplicemente a descrivere una situazione senza per questo voler cercare di risolverla. E quindi la poesia, come un quadretto, che resta così non appeso ma sospeso nella nostra vita, anche questo secondo me rende questa poesia molto efficace. Magari non ti piace, o sì? No, questa mi piace, perché io penso che meno male. A volte abbandonarsi al pianto faccia bene, perché il pianto libera dall'angoscia, restituisce dignità al dolore, e direi che a volte toglie quelli che sono gli aspetti negativi del dolore, la rabbia, per esempio, la voglia di vendetta. È una poesia brevissima. Lacrime. Sale l'angoscia e si muta in pianto. Benefico e caldo come il sole d'aprile. Il cuore si scioglie dalle sue catene e del dolore rimane la parte più pura. Non posso nascondere che questa è tra le mie preferite in assoluto, tra le diverse che ho avuto, come dire, il piacere di leggerla. Faremo incorniciare, mi facciamo un quadro che non può essere appeso, come ho detto, ma sospeso. Quindi dovremmo trovare una tecnica un po' particolare. Adesso arriviamo, come dire, a un'altra sezione nella quale, così mi sembra, me lo sono forse inventato io, l'ho visto io, Alessandra ha cambiato un po' stile in queste poesie, che io mi sono immaginato essere le ultime perché erano in fotocopie, dove Alessandra diventa forse un po' meno poetica ma più narrativa. E qui ci rifacciamo quell'aspetto che tu dicevi io no, non sono esattamente un poeta, ma sono una persona che compone, tra virgolette, fa delle composizioni di parole, così avevi usato questa espressione. Traduco in parole le emozioni, esattamente. Qui, come sentiamo che il ritmo è anche molto diverso, è meno incalzante, è molto più, come dire, pacato, rilassato, più portato verso una elaborazione mentale. Lettera d'amore è, secondo me, anche una poesia molto bella, molto dolorosa, e anche questa, secondo me, è sicuramente tra le più significative che Alessandra ha avuto modo di scrivere, quindi spero che possa essere anche pubblicata presto, perché è molto bella. Non so se questa è già stata premiata. No, perché non l'ho presa, è l'ultima, perciò ecco. Non... Quindi la candidiamo per il prossimo premio ufficialmente. Questa quindi non ha Marta, prendi nota se ti piace, voglio dire, questo è chiaro. Non ha bisogno di spiegazioni, perché non le voglio neanche dare. Mi chiedevo cosa fosse il dolore, quando camminavo felice al tuo fianco ed insieme guardavamo al futuro avvolti dal caldo abbraccio della vita. Mi chiedevo come fosse il dolore, quando vedevo gli altri soffrire, e il tuo sorriso fugava le mie paure e vinceva le mie fragilità. Sembrava eterna la giovinezza del cuore, che ancora sussultava ad ogni incontro. Ora cammino da sola e rifuggo da ogni sguardo, stretta fra le rigide braccia di una solitudine che lacera l'anima, raggela il cuore e non dà spazio al pianto, al conforto delle lacrime. Ora non mi chiedo più cosa e come sia il dolore. Mi chiedo soltanto, e con angoscia, quale sia il limite della sua crudeltà. Si tratta evidentemente di una poesia che definiamo di tipo esistenziale, collegata alla precedente, perché devo dire quasi per la prima volta nella mia vita noto anche questa epiteto legato alle lacrime e al pianto, che per te è una cosa molto calda, e questo effettivamente mi ha toccato moltissimo, perché invece io ho la sensazione forse qui, come dire, anche la sensibilità maschile e femminile sono molto diverse, quindi per me il pianto è una cosa brutta, fredda, eccetera, non è niente di consolante, mentre invece prima era paragonato al sole di aprile, e in questa poesia ancora non dà spazio al pianto, al calore delle lacrime, quindi questa, anche questa, come dire, idea delle lacrime, del pianto visto così sotto un'ottica per me così lontana, mi ha appassionato e mi ha intrigato tantissimo. Sempre legato ad aspetti esistenziali è questa poesia, che forse magari ci puoi spiegare un attimo, ancora un giorno, Signore. Sì, perché questa, dopo quella di prima, vuole essere una speranza, perché noi quando viviamo un periodo felice della nostra vita, come per esempio ho avuto la fortuna di avere io, custodiamo gelosamente la nostra felicità nel nostro piccolo mondo, non guardiamo oltre noi stessi. Quando questa felicità ci viene a mancare, sembra che il mondo ci crolli addosso, però bisogna continuare a vivere, a guardare oltre noi stessi, a scoprire che forse la vita ha altre ragioni per continuare a vivere e ci può offrire ancora qualcosa. Ancora un giorno, Signore. Dal calendario della mia vita ho sfogliato l'ultima pagina d'estate. Il sole non assale più i miei occhi. Nella luce discreta della stagione più dolce, guardo oltre me stessa e il mondo mi appare più grande. Ha il sapore di un frutto maturo oggi la vita, da gustare pian piano per dilatare i tempi del piacere. Giardini inesplorati, voci inascoltate, gioie non ancora vissute irrompono sullo schermo di un ormai breve futuro. Da adesso ti chiederò sempre un giorno di più, Signore, e poi un altro, e ancora un altro, e un altro ancora, per amare ancora, per sognare ancora, per sperare, gioire e soffrire ancora, per imparare a vivere, fino al giorno in cui, spentasi anche l'ultima fiamma di quell'umano egoismo che regge e consuma ogni vita, sui miei occhi, pietosa, si poserà la tua mano. Mi permetto, da adesso ti chiederò sempre un giorno in più, Signore, una cosa che potremmo fare tutti, se poi venissimo esauditi ringrazieremo naturalmente Alessandra. Invece, come avete notato, queste poesie sono, secondo me, dal punto di vista poetico, un po' meno poetiche, un po' più narrative, un po' più racconti, un po' meno ermetiche, e invece ha tutt'altro, come dire, ha tutt'altro piano. Appartiene questa una favola alla rovescia. Questa è esattamente, lo dicevo prima, come una ballata medievale quasi. Questa ha un ritmo molto incalzante e devo dire, chissà, chi darò magari a un allievo del conservatorio di musicarla, perché ha un ritmo così regolare che effettivamente potrebbe suscitare anche un bellissimo, ispirare anche un bellissimo lead. Anche questa mi piace molto. Questa invece appartiene alle poesie di carattere un pochettino più estetizzante, quindi non legate. Non so se mi vuoi spiegare quando hai composto questa poesia. Ma questa significa, non lo so, sono due molto simili. Questa è un'altra che non so dove hai messo, che forse ho... l'ultimo tratto, sì. Che è vista da angolazioni diverse. Esattamente. Ma mi piacciono un po' le favole. Che è quella che leggiamo subito dopo, ecco, che fa Pandan, non a caso. E praticamente, che cosa voglio dire qui? A volte pensiamo che la felicità sia sempre un passo più in là. A volte invece le piccole cose che ci rendono felici e semplici la vita sono più vicine di quanto noi stessi possiamo immaginare. Questo immagino una ragazza che lascia il suo piccolo mondo incantato per seguire nuovi orizzonti, ed è una favola alla rovescia, perché appunto non ha un lieto fine, e quando torna nel luogo che l'ha vista felice non viene quasi più riconosciuta dai suoi, chiamiamoli, compaesani o comunque dalle persone, insomma è un mondo che non le appartiene più. una favola alla rovescia. Raccontavi favole antiche, danzando le giadra sul lago ghiacciato ai margini del bosco, e il rosso mantello disegnava nel vento e nel sole arabeschi di fuoco. Eri come una fata nel piccolo borgo attorniato da monti, dove solidi affetti, ataviche certezze, facevano da scudo ai richiami del mondo. Ma il lupo passò, vestito da principe, e il suo abbraccio ti tolse il respiro e travolse il tuo cuore. Dissoltisi i trepidi sogni al pallido sole delle illusioni, vagasti per terre lontane, in un mondo senza confini, inseguendo il miraggio di nuovi orizzonti. Tornasti un'estate a cercare l'incanto perduto. Ti accolsero sguardi schivi e ossequiosi sorrisi. Nel lago, riflessa, la tremula immagine di una bella straniera passata per caso o per gioco in un piccolo borgo attorniato da monti. Ecco l'ultimo capo. Beh sì, qui invece si tratta non più di una fanciulla, ma di una persona molto anziana che è arrivato verso la fine, insomma, della sua vita nella vecchiaia, si accorge di avere perduto molte occasioni di felicità per cercarla sempre un po' più in là. L'ultimo tratto. S'addensano le nubi nel cielo basso di una quotidianità senza attese, quando passioni e speranze svaniscono all'ombra dei ricordi. Si ferma il vecchio e si volta indietro per capire il senso di una vita vissuta troppo in fretta, calpestando aiole fiorite e scavalcando freschi ruscelli. Cieca, stolta gioventù che cerca sempre altrove la felicità. Sorride ora il vecchio con rassegnata saggezza e riprende lento il cammino, assaporando passo passo i frutti dell'ultima stagione lungo il breve tratto che lo condurrà al confine dove finisce la realtà e comincia il mistero. Ah sì, il passo del tempo. Beh, questa qui mi è simpatica, anche se non è una granché, perché allora sono i tre momenti della nostra vita, no? Quando siamo bambini abbiamo fretta di crescere, di fare le cose da grandi, e da Natale a Natale l'anno è tanto lungo. Dopo diventiamo giovani donne, giovani uomini, incontriamo l'amore, rincorriamo la nostra vita e il tempo comincia anche a seguire il ritmo del nostro cuore. Poi il nostro passo rallenta durante la maturità o la vecchiaia e il tempo corre sempre più in fretta. E da Natale a Natale non è più un anno, è un mese. Il passo del tempo. Camminava lento il tempo, come un vecchio stanco, quando nelle lunghe estati dell'infanzia correvo felice sul prato dorato e la voglia di crescere premeva nel petto con la forza del bimbo che cerca l'uscita dal grembo materno. E il Natale sembrava tanto lontano. Camminava in fretta il tempo, come un giovane che va incontro al suo amore, quando con l'ansia dei 20 anni volgevo fisso lo sguardo a un futuro di sogni e l'estate scorreva al ritmo del mio cuore. E il Natale sembrava meno lontano. Ora corre il tempo, veloce e impietoso come il fanciullo che fugge dal vecchio stanco che lo chiama al suo fianco. E l'estate è sempre più breve. Ed è subito Natale. Devo dire che Alessandra non si è accorta, oppure l'ha fatto semplicemente, è venuto naturale, però, come dire, noi critici che guardiamo le cose, magari andiamo spesso a vedere quello che non c'è o quello che il poeta non ha fatto, non ha pensato, non ha detto. Chissà quante scemenze faccio dire a Mozart come studioso di Mozart e lui magari non se lo sarebbe mai permesso di pensare determinate cose. Oltre le nostre intenzioni. Esattamente, esattamente. Però ho notato che i tre segmenti della poesia sono anche distinti sotto il profilo ritmico, cioè che quando il tempo è lento, il ritmo è veramente lento, e quando il tempo è veloce, il ritmo è molto più veloce. Infatti l'Alessandra ha letto tutti gli ultimi versi attaccati l'uno all'altro proprio perché il ritmo incalzava. Non so se questa è una figura retorica adottata volutamente dall'autrice o se è semplicemente un fatto che è venuto quasi istintivo o automatico, però senz'altro questo aspetto, come dire, formale, impreziosisce non poco questa poesia, che naturalmente mi fa sempre pensare al Natale di Ungaretti, soprattutto negli ultimi versi. Anche qui non so se la citazione è voluta, ricercata, è casuale, è endemica, è perché la scuola ci rovina e quindi a un certo momento, senza offendere, nell'istituto pedagogico, nella sovrintendenza scolastica, ovviamente. Però naturalmente certe cose diventano automatismi, è il problema delle cosiddette reminiscenze, che non sappiamo mai se sono volute, ricercate, se capitano, o se invece è proprio, e anche questa è una prospettiva interessante, che determinati oggetti, come dire, si collegano a determinate parole, situazioni e scenografie anche metriche. Ora, finite queste poesie di carattere esistenziale, arriviamo all'ultima sezione che è formata, che avrei selezionato secondo i miei gusti. Diciamo che io mi sono comportato in questo modo. Alessandra mi ha dato l'offerta di una grandissima galleria dalla quale io potevo attingere a piacere, diciamo, determinate poesie. Alcune piacevano ad Alessandra, altre piacevano un po' meno, l'ha detto anche prima, diciamo. Questa ultima sezione, che è di quattro poesie, però potrebbe essere arricchita di una quinta poesia, perché mi hai detto che c'è una poesia che ti stava molto a cuore e che quindi ci vorresti leggere, direi, al termine. Qui ritorniamo ancora con la, come dire, poetessa infante. Perché qua è una poesia che mi dice aver scritto all'età di circa 17 anni. Forse 19. Forse faremo un'esegesi, poi arriverà, come dire, ops, mette il silenziatore sul cellulare, naturalmente sarebbe la prima regola, non solo del pubblico, ma anche del relatore. Allora, era Lampis. Quindi si vede che ne ho combinata una delle mie. Allora, dicevo, poesia composta a 17 anni, magari un'esegeta scoprirà che invece no, l'autore mente perché l'ha scritta in un'altra età. Anche con Mozart facciamo spesso così, solo che Mozart non ci può più rispondere, quindi noi diciamo delle cose e naturalmente l'autore non ha più possibilità di rispondere. Trovo questa poesia proprio piena, come dire, di quella freschezza che magari abbiamo perso strada facendo, acquisendo invece altri contenuti. Quindi mi piaceva, in senso adesso, come dire, drammaturgico, costruito questo incontro come fosse un'aria d'opera, ritornare un po' a questo mondo primigenio, un pochettino ingenuo, ma nel senso proprio più profondo ed etimologico del termine. Si era di marzo, naturalmente marzo. Lo diceva già Catullo, è il mese dei poeti per eccellenza. Marzo è la primavera, è il, come dire, il momento in cui l'uomo in qualche modo cambia, e naturalmente è chiaro che marzo è uno, come dire, tra i mesi più poetati nella storia della poesia. Questo l'ho letto di recente e non è naturalmente un caso. Quindi se ci puoi leggere Sera di marzo. Sì, una ragazza che tra i tanti sogni sognava anche l'amore, lo incontra, poi la delude un po' e rimpiange i tempi in cui il vento le spettinava i capelli, perché lo vede nel vento, non so, è un senso di libertà che prova, no? Sera di marzo, ricordi quella sera di marzo? Il vento sembrava impazzire per me, mi avvolgeva e giocava con i miei capelli. E tu mi guardavi, con umidi occhi di cerbiatto stupito. Ed io bevevo quel vento e sentivo di appartenergli. I miei capelli erano lunghi ancora, le mie guance rotonde ed il viso pulito, ed ero felice. Ora il vento non c'è più per me. Ora sei tu che mi avvolgi e giochi con i miei capelli. Ed io non so se sono felice. Molto bene. Molto fanciullesca, come ho detto, quel tratto di ingenuità, ma ripeto, non uso questo termine, questo aggettivo in senso negativo, ma proprio in senso etimologico. E trovo anche bellissima questa frase sospesa: io non so se sono felice. Lo trovo anche bello perché tutto sommato una poesia non deve risolvere, anche l'aria d'opera non deve assolutamente risolvere, ma deve lasciare un qualche cosa in sospeso che ci faccia pensare. Ora, noi non l'abbiamo detto, ma abbiamo visto in questo percorso, come dire, una figlia, una moglie, ma esiste anche una madre che fa poesia, giusto? La cosa magari ci potrebbe sembrare curiosa, ma è una cosa da non sottovalutare per qualsiasi donna e per qualsiasi figlio, naturalmente. Peraltro anche mia mamma aveva velleità poetica e faceva la giornalista, e devo dire che ho anche un po' di sensi di colpa, perché noi la prendevamo un po' in giro, insomma, detestavamo questo suo lato poetico, ma lei era assolutamente un panzer, è andata avanti e quindi ci ha lasciato in eredità un pacco di poesie, e noi come punizione nei nostri confronti le abbiamo anche pubblicate. E quindi, come dire, è giusto così, una mamma può anche scrivere poesie, anzi, perché no? Ho impiegato 48-49 anni per capirlo, però alla fine l'ho capito anch'io. Questa poesia, secondo me, a parte questo aspetto, come dire, ironico, perché apprezzo sempre presentare le cose con una certa ironia, però ha un suo significato, direi, esistenziale molto importante, ed è, secondo me, una poesia molto bella, e direi che è venuta molto serrata anche come utilizzo dei versi, delle rime, dei ritmi, veramente una poesia, secondo me, assolutamente solida anche sotto il profilo formale. Grazie. Se mi posso permettere. No. La tua piccola mano. Sì, beh, qui penso che ogni mamma si possa riconoscere, no? È la nostalgia che una madre prova quando vede il figlio o la figlia, i figli crescere e camminare da soli lungo il percorso della loro vita, e qualche volta dovrebbe ricordarsi di allentare la stretta della mano, no? Perché la mamma rimane sempre una mamma, mettiti la maglia, cosa hai mangiato? Mio figlio stesso mi rimprovera quotidianamente di questo, ma comunque, insomma, penso che sia comune ad ogni madre, io non mi sento molto in colpa per essere così. Beh, lì che mi guarda e ride. E annuisce, annuisce. Beh, insomma, la tua piccola mano. Tenera piccola mano, stretta nella mia, lungo il cammino della tua infanzia. Davanti a noi, spalancato, il mondo colorato che io riscoprivo per te e con te, attraverso i tuoi occhi, che la curiosità rendeva immensi. Ricordi di complicità e risate, di risposte mai negate, di mille favole inventate, perché la tua allegria era la mia allegria, i tuoi perché, la tua fantasia erano la mia ispirazione. Forte, giovane mano vibrante nell'ansia della conquista, impaziente, ribelle ed imperiosa nella pretesa di nuove libertà. Ora assisto sgomenta all'esplodere dell'estate della tua vita e ti guardo incredula, orgogliosa ma confusa, e ti chiedo scusa se la mia mano, distratta da quel sottile dolore che è la nostalgia, dimentica talvolta di allentare la sua stretta. Allora, nel giorno del papà, da papà, diciamo, dedichiamo questa poesia a tutte le mamme. Io riconosco anche mia moglie qui dentro, anzi la farò leggere, perché e volevo concludere questo incontro con, come dire, una doppia poesia. L'una raccontata l'una collegata all'altra. Spesso la poesia non si interroga su se stessa, così come la musica non si interroga su se stessa, così come difficilmente l'arte si interroga su se stessa. Il bello di queste due poesie è che Alessandra ci racconta in questa prima che cos'è la poesia. Effettivamente abbiamo difficoltà a chiedere e a, come dire, a dare una definizione. Devo dire, anche a casa mia è successa una cosa di recente che mi ha fatto molto riflettere. Naturalmente uno dei miei compiti è insegnare la storia del teatro musicale. Sono la bellezza di 25 ore all'anno per 3 anni, i ragazzi imparano, non dico ogni cosa perché io stesso non lo so, ma tante cose sul teatro musicale, però questa poesia mi ha fatto riflettere perché alla fine io dico tante cose ma non do una definizione di teatro musicale, spesso non diamo una definizione alle cose e questo secondo me è spesso un'occasione, come dire, mancata, diamo tutto un po' per scontato e il bello di questa poesia che è veramente molto graziosa ha secondo me questo merito importante. Che cos'è la poesia? Posso chiederti quando l'hai scritta e posso chiederti anche perché? Ma perché? No, è nata, beh, naturalmente l'ho scritta dopo, l'ho elaborata un po' dopo. Mio figlio faceva la prima elementare, non so, l'ho uscito di scuola, mi ha chiesto che cos'è la poesia e io ho cercato di spiegarglielo, un po' confusamente e troppo lungamente, se n'è andato a giocare con i suoi amici e mi ha lasciato da sola con i miei pensieri, poi a casa ho dato una composizione, insomma, un po' accettabile a quelli che erano dei concetti ancora confusi. Cos'è la poesia? Piace molto quella signora lì. Ah, sì? Sì, quella signora bionda lì, allora. Davvero? L'avrà sentita? La... Tutte belle le poesie. Sì, sono tutte belle. No, questa, non so. Questa, secondo me, è molto graziosa. L'avrà sì, sentita d'accordo. Una decina di volte, ma comunque... Sì, però è sempre con l'unica gioia che ascolta. Allora, speriamo che sia... Sono lieto, tanto, quindi, di averla selezionata. Anche a me è piaciuta, è stata tra le prime che avevo selezionato. Sì. Non solo perché è a pagina 2, ma proprio perché... La pigrizia di svogliare. No, scusate, scherzo, però è importante, cioè tanti aspetti. No, devo dire che spiego anche ai miei allievi, guardate che quando studiate un'opera non è che voi prendete la partitura e iniziate a cantare da pagina 1 eccetera eccetera, perché Giuseppe Verdi non ha iniziato a comporre Nabucco a pagina 1, sarebbe troppo bello e troppo facile. L'ha iniziata dove? Dal va pensiero che era la fine del terzo atto e infatti questo messaggio l'abbiamo recepito tutti e capiamo tutti, indipendentemente dalle idee politiche, dalla cultura eccetera eccetera, capiamo che quello è un punto topico. Quindi la presenza di una pagina, adesso stavo scherzando, non è di per sé significativa appunto, ma significativa appunto il pensiero che è stato fatto dopo e ripeto, questa poesia è molto bella. In più devo dire che, scusa se la metto sul personale, mi è successa la stessa situazione, che sono andato a vedere con mio figlio Le nozze di Figaro alla Fenice di Venezia, in ottobre. Solo che questo figlio ha il difetto di essere figlio di due musicisti e questo per lui è veramente una tragedia e ha 10 anni e in più a lui dell'opera non gliene può fregare di meno, è un ottimo calciatore, in più tiene anche per la squadra sbagliata, le ha tutte mio figlio. Gli ho dato l'opportunità, ho detto, senti Maximilian, lunedì se vieni a vedere le nozze di Figaro alla Fenice che dura 4 ore secche, puoi saltare scuola. Lui, preso dall'entusiasmo, è venuto, devo dire, ha raggiunto il suo obiettivo, però io ho chiesto, ma adesso Maximilian, tu come proprio grazie a questa poesia, ma tu come definiresti l'opera? Ha detto una cosa di una banalità sconcertante che devo dire mi ha aiutato anche professionalmente, ha detto, ma l'opera è facile, ci sono delle persone che fanno teatro, anziché parlare cantano, voi dite banalità, ci voleva un bambino al professore di letteratura poetica drammatica del conservatorio, quindi ripeto, questa semplicità e questa grazia di questa poesia mi hanno dato veramente tantissimi stimoli e volevo comunicarveli questa sera con questa lettura che tu senti per la decima volta, ma non è mai abbastanza perché è così bella che faremo tutti l'abbonamento. Il titolo è molto semplice, cos'è la poesia? Cos'è la poesia? Mamma, cos'è la poesia? mi chiedesti un giorno lontano l'uscita di scuola, la poesia. La poesia è il respiro del cuore, è un rifugio nel dolore, è la penna di pavone della fantasia, è una frase d'autore, è un momento d'amore, è un'emozione tradotta in parole, è una pennellata d'azzurro nel grigiore della vita, è il timido sussurro di un'anima ferita, è l'ansia d'infinito, è lo zucchero filato di un concetto ardito, è la pagina rosa di un libro senza storia, è la danza della memoria sulle note di una cantilena infantile, è un'inquietudine sottile, placata in una rima baciata, è un sorriso sincero, è l'armoniosa sintesi dell'umano pensiero. E mentre rispondevo, ormai solo a me stessa, e ti guardavo intento ai tuoi giochi di bimbo, pensai, e non ti dissi mai, per quel pudore che è rima d'amore, che per me tutta la poesia del mondo era racchiusa in te. La cosa divertente, devo dire sotto il profilo formale, sono stato buono fino adesso, bisogna ammettere, vero? Sì, sì, io veramente avevo una paura folle, ma è stato buonissimo. No, ma devo dire che c'è qualcuno qua fa cattiva pubblicità su di me. Non lo so. O forse effettivamente sono disperso. Non so se mi servi tutto alla fine, ma comunque non so se ti attieni da quando. No, volevo far notare che tu dici che è una rima baciata, quando in realtà tu usi pochissime rime baciate. Sì, questa è una delle poche poesie dove tu usi rime baciate. Semmai qui notiamo la rima al mezzo, quindi un altro espediente poetico un attimino più complesso, placata in una rima baciata, una rima al mezzo, placata con baciata, e non è una rima baciata perché la rima è fatta all'interno dello stesso verso, quindi sotto il profilo formale anche un attimino più pretenziosa e interessante, e veramente sono pochissime le rime baciate che ha utilizzato. Se devo essere sincero, questa rende anche la tua poesia molto più apprezzabile, perché non è semplicemente un esercizio, come dire, di una certa verbale. Sì, esatto, di estetismo verbale, quasi di una certa, in tedesco suona meglio trivial, diciamo, che in italiano, però di una certa trivialità, cioè di una certa semplicità di uso di tono corrente, che renderebbe la poesia, come dire, magari più facile da ascoltare, però un po' meno contemporanea sotto il profilo strutturale. Concludiamo quasi questo incontro, perché c'è un fuori programma che l'Alessandra, infatti un piccolo fuori programma, con una poesia secondo me molto bella. Naturalmente ci si domanda, ma una persona perché è poeta, una persona perché è artista? Forse potremmo chiederci che cosa rende Ricco un poeta, cosa rende Ricco un musicista o un qualsiasi artista. Naturalmente la ricchezza non è fatta da termini, come dire, semplicemente materiali. Voi sapete, il nostro Mozart è morto in situazioni economiche non certo particolarmente vantaggiose. La ricchezza del poeta è, scusa. Poi, scusate, lei ha avuto questa, io ho fatto questa nota, no? Perché mi sono preparato. Solo che io ho una scrittura così da cadi che mia moglie dice, ma i tuoi allievi quando scrivi alla lavagna cosa capiscono? Risposta mia, nulla, ma io lo faccio perché sono pagato a scrivere alla lavagna. Quindi lei poverina adesso cercava di, tra questi geoglifici, poi uno li vede e pensa che sia una bella scrittura, esteticamente molto bella, però siccome scrivo A, O, M, U uguali, allora anch'io devo ricordarmi che cosa avevo scritto. Detto questo, la poesia è significativamente questa volta a pagina 1 della raccolta, e mi volevi vestita d'azzurro, come abbiamo visto era proprio la prima poesia, che era la prima poesia che abbiamo letto, dedicata appunto ai ricordi di bambina. Ora la domanda è la ricchezza del poeta, anche questo secondo me è un aspetto veramente, veramente bello, dove capiamo appunto il perché ci troviamo davanti a una persona estremamente ricca. Spesso pensiamo che chi scrive poesie o chi fa arte esercita in modo disperato la sua condizione. Questa poesia invece ci mette su un altro aspetto molto più giocondo e ilare, e secondo me anche questa è una poesia molto bella che meriterebbe anche questa di essere musicata, starebbe molto bene anche per gli ampi ottonari che vengono utilizzati, per la regolarità del verso, per la rotondità con cui è stata scritta. Volevo sapere, questa è stata pubblicata anche su un'antologia, sì. Quindi una poesia premiata. Posso sapere quando l'hai scritta, grosso modo? Questa, ma saranno due o tre anni, quindi non ricordo. Uh-huh. Sì, qui posso leggere cosa hanno scritto sull'antologia. I poeti non accumulano ricchezze, sono poveri, ma la loro ricchezza consiste proprio nella poesia. Ecco allora che il dono più grande che possa fare un poeta è quello del suo cuore, dei suoi versi, dove trovano spazio i pensieri, i sentimenti, i sogni e le fantasie. Tutto si fa così luminoso e colorato e la vita diviene libera di realizzarsi. Questo lo dicono loro. Ci dobbiamo credere sicuramente. E invece adesso ascoltiamo quello che dici tu e soprattutto come lo dici con i tuoi versi. Cioè la ricchezza del poeta, devo esattamente dire. Sì, e così anche saluto questi signori che io veramente ringrazio per l'attenzione che mi hanno riservato. Vi devo dire che vi sono molto grata e mi avete anche un po' commosso, per cui insomma. Avrei voluto essere un re e regalarvi un castello popolato di fate e di gnomi, con un grande giardino dove rincorrere insieme sogni e farfalle. Avrei voluto, ma sono soltanto un poeta, e tutto ciò che posso donarvi è il castello dei miei pensieri e il giardino della mia fantasia, dove i fiori della mia dolce e ostinata follia sbocciano anche d'inverno, colorando di rosa, d'azzurro e di libertà tutte le stagioni della vita. Bene, due minuti, subito 2 minuti. Dagli applausi che abbiamo sentito, le poesie sono piaciute molto. Ve ne leggo ancora una, abbiate pazienza, perché questa è abbastanza recente, perché mi ricordo che una persona mi aveva molto colpito, era un medico, mi aveva detto che nel momento in cui si nasce ci viene offerto un mazzo di carte, no? Per giocare la partita con la vita. E non è importante che le carte siano buone, l'importante è come le sappiamo giocare. E naturalmente questa cosa mi è rimasta in mente e ho scritto qualche cosa, perché lui mi ha detto: attenzione signore, perché la vita non offre una seconda possibilità, non è come la partita a carte con gli amici. Vorrei tornare per un attimo bambina e ritrovare l'abbraccio di mio padre. Per un'ora ai miei 20 anni, per rivivere la scoperta dell'amore. Per un giorno giovane donna e guardarmi accarezzare stupita il ventre gonfio di nuova vita. Vorrei squarciare la nube dell'abitudine e riscoprire tutti i colori del mio arcobaleno. Abbandonare il fardello dell'esperienza per dimenticare il prezzo della felicità. E poi rigiocarmi la partita con la vita. Con questa vita sleale che gioca carte truccate, questa vita bugiarda che mi illude e mi inganna, questa vita matrigna che non mi tiene per mano, che fugge, mi sfugge e uccide i miei sogni, questa vita superba che non si lascia imparare, questa vita beffarda che mi ha dato le ali ma non mi lascia volare. Sentiti ho sentito che mi ascoltavate e la cosa mi ha emozionato, sono molto grata. Grazie a te. E grazie a questo professore che è stato buonissimo, veramente, no, stanza, è stato buonissimo. Ho avuto paura di voi.